Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Fordulok minnyár otthon leszek. Jaj, jaj, lepedőm, szép fehér lepedőm, meré urat még kapok, de lepedőt nem szabok, merén fonni nem tudok, lepedőt sem csinálok. Buonasera e bentornati a Radio Città del Capo. Qui è sempre Etno Chic che vi parla dalle frequenze della radio, che l'ascoltiate direttamente sulle onde medie di frequenza alle 96.250, ci pare, perché abbiamo perso una frequenza e quindi adesso mi pare di leggere che insomma quello su cui ci potete ascoltare o ci state ascoltando dalla radio, da casa, eccetera eccetera, sono le onde medie di frequenza. Buonasera a tutti, ciao Vladimiro. Ciao Stefano. Allora sì, leggo 96.300, c'è un appunto 96.300, ecco, invece qua. Altrimenti sicuramente su radiocittadelcapo.it nella pagina della diretta potete ascoltarci come sempre o quasi sempre qui in diretta a Radio Città del Capo dalle 20 alle 21 circa ogni giovedì. Stasera parliamo di... Abbiamo già sentito, abbiamo dedicato alcune puntate un po' all'epica, al canto epico, all'importanza insomma di questo canto che racconta un po' la storia di una comunità, di una tribù, di un popolo e tutto quello che è connesso, una volta storie a volte anche molto lunghe. Adesso, come dire, invece andiamo nell'universo di quello che viene chiamato canto narrativo, più comunemente ballata. Abbiamo voluto cominciare con qualcosa che è un po' arrangiato, insomma. È un po' arrangiato, è un arrangiamento di una... cosa succede? È un brano arrangiato di una ballata popolare ungherese da Zoltán Kodály, che insieme a Béla Bartók è stato tra i primi appunto a registrare e a raccogliere i canti popolari in Ungheria poco più di 100 anni fa. E proprio tra i primi canti che loro analizzano e raccolgono di cui pubblicano a volte poi i testi e le musiche, perché sono appunto tra i primi, il loro primato è che appunto loro, quando iniziano queste raccolte nel 1906, sono i primi in Ungheria a pubblicare non solo le musiche ma anche non solo i testi, ma testi e musiche assieme, e anche a registrarli. E questa era appunto una ballata, cioè un canto popolare che di solito insomma racconta una storia in modo abbastanza impersonale, spesso ci sono dei dialoghi, però rispecchiano più che i conflitti magari o le storie diciamo di grandi comunità, di spostamenti, rispecchiano i conflitti sociali o individuali all'interno della società, soprattutto gli storici, quelli che si sono occupati, fanno risalire a questo tipo di questa forma musicale al periodo del Medioevo, ma anche qualsiasi libro di storia della musica parla della ballata, sì. Perché proprio in quel periodo, probabilmente in area francofona, insieme ai trovatori, trovieri, che purtroppo i nostri alunni a scuola non sanno neanche chi sono, e invece una volta i nostri insegnanti di lettere ci facevano leggere le poesie di Bertrand de Born piuttosto che il Dolce Stilnovo, i Minnesänger tedeschi. Abbiamo una scuola qui a Bologna che si chiama Guido Guinizelli, insomma, certo. Tutti questi personaggi che e tutto questo fervore di culturale, insomma, che appunto soprattutto tra il XIII e il XIV secolo fanno quasi un preludio all'umanesimo rinascimento che verrà poi un po' dopo. E questo brano appunto fa parte, questa ballata, e la ballata si chiama di solito le ballate hanno, come dire, dei nomi che si distinguono in modo, o l'inizio, la prima linea, che spesso è poi la stessa, oppure una specie di titolo che è, come dire, l'argomento. E l'argomento di questa è la moglie, la cattiva moglie. Ma in realtà questa moglie è una moglie che praticamente va a ballare, che sta ballando. E anche più che qua, che c'è il contrasto tra le notizie che gli porta il figlio, che sono sempre più drammatiche, perché alla fine praticamente questa storia, il figlio va dalla madre e gli dice: guarda che il papà sta male, guarda che il papà sta molto male, guarda che il papà è morto. E lei continua a dire: no, aspetta, voglio fare un altro ballo. In realtà è quasi un po' scherzoso, insomma, nel senso che non è proprio... Anche qui c'è il contrasto drammatico tra la prima parte più lenta e quella più veloce, dove c'è la risposta della madre, no? Che sta ballando. In realtà l'originale è quasi tutto molto, ed è una delle poche ballate ungheresi dove c'è un ritmo di danza. Io naso ed esciagnam, questa è la melodia più diffusa. È una delle poche ballate che è proprio legata a un ritmo di danza nella cultura ungherese, dove di solito questo genere era... soprattutto cantato nelle situazioni tipo le filande oppure nelle situazioni dopo la giornata di lavoro. Era proprio come raccontare una storia, insomma. Roberto Leddi diceva: come al posto della televisione le persone si sedevano tutto intorno e si raccontavano delle cose oppure cantavano delle canzoni, e naturalmente e si passavano delle notizie. Allora, Vladimiro, possiamo dire, per distinguere un attimo dal poema epico che è lunghissimo, la ballata propone, diciamo, per grandi linee un tema, no? Sì. E lo sviluppa ovviamente meno tempo. Sì, anche se a volte, allora, bisogna tenere presente che chiaramente questo è un genere che nel passare, diciamo, degli ultimi decenni si è piano piano un po' perso, anche se nella memoria degli anziani ancora si ritrovano questi temi. Basta pensare, noi ce ne occuperemo e partiremo oggi dai Balcani, però arriveremo poi anche in Italia. Basta pensare che una delle canzoni italiane più conosciute al mondo, Bella Ciao, è basata su una struttura di un canto narrativo è la Benavanda sonnifera, con elementi poi di altri elementi di canti popolari, meno quanto insomma se ne parla. E questo per dire che comunque in realtà sì, non è proprio scomparsa, però sicuramente essendo una melodia a tante strofe, aveva anche qui la necessità di usare dei pezzi di testo che si ripetevano a volte. Sono passati anche da una lingua all'altra, anche sono stati tradotti quasi pari pari, e quello gli studiosi si sono un po' ingegnati a capire le provenienze, gli spostamenti, i prestiti. Insomma, è una storia molto lunga che non vogliamo trattare qua. Appunto, abbiamo ascoltato questo brano anche perché è un po' il primo tentativo da parte sia di Bartok che di Kodály di rapportarsi in modo rispettoso a questo materiale, con degli arrangiamenti che comunque tenessero bene in considerazione quello che era, insomma, l'importanza di queste musiche popolari, insomma, la loro bellezza, senza alterarle più di tanto. E anche perché poi era la loro prima raccolta di queste melodie raccolte in Transilvania, che avevano pubblicato assieme proprio un volume che si chiama appunto La popolazione transilvana, canti popolari. E oltre a questo, che era un lavoro proprio di studio con trascrizioni e testi, ci sono poi appunto in varie raccolte di canti popolari, questi sia per pianoforte che invece, come in questo caso, il tenore, che era Leslie Chabi e Tibor Cosma al piano. Questi sono proprio arrangiamenti da musica da camera. Una cosa interessante è che questo disco, che si chiama Folk Song of Hungary, è una bella edizione, come sono molto belle le edizioni della Bartok Records, che è questa piccola casa editrice che sta negli Stati Uniti, è praticamente gestita dal figlio Peter Bartok, che è ancora vivo ma è molto anziano sta curando le ristampe, le edizioni originali di tutti i lavori principali che ha fatto suo padre, insomma. E stavamo parlando di Balcani, quindi ci addentriamo un po', anche perché poi il tempo è abbastanza tinano, sono già le 8:15, le 20:15, con un tema che è proprio tipicamente balcanico, che è la storia che possiamo definire la storia della moglie murata, o la leggenda della moglie murata. E questa leggenda praticamente è una ballata popolare che è diffusa in tutti i Balcani, e ancora adesso si trova, insomma. Ed è la storia di questi muratori che, per non far crollare il ponte, che o per un incantesimo oppure semplicemente perché ogni volta che lo ricostruiscono cade, devono murare qualcuno. Allora decidono, c'è questa credenza che devono murare o sacrificare qualcosa, no? È probabilmente un vecchio retaggio dei sacrifici umani o sacrifici così del tempo pagano. E allora decidono che avrebbero murato la prima persona che sarebbe arrivata. E naturalmente il capo muratore vede arrivare sua moglie ed è costretto a murarla. Però ricordiamoci che questa tradizione, le ballate, è interessante perché molto spesso sono ballate un po' crude, no? Con elementi proprio anche molto duri come questo. Pensate, murare una persona, poi spesso per murarla gli raccontano, la ingannano, gli dicono: facci vedere se la fossa è abbastanza profonda, se il muro, insomma. A volte questa donna è pure incinta e poi insomma oppure ha un figlio a casa che poi riuscirà, da cui poi darà il latte attraverso dei fori. Insomma, ci sono i particolari un po' forti. Ma in questo rappresentare questo c'è forse da un lato anche un po', come dire, il gusto un po' per il, quello che chiameremo oggi il thriller, no? Ma da un lato anche un po' la condanna per una situazione sicuramente di vita molto dura che portava anche a una grande dose di violenza, insomma, basta pensare a, insomma, che non, sicuramente non, non da, basta pensare appunto che questo mito del murare, c'è cioè anche del sacrificio del sangue, c'è anche molto la tradizione, la ballata o dei personaggi come Vlad Dracul oppure la contessa Bathory, sono questi personaggi leggendari, questi nobili particolarmente sanguinari che, di cui quelle aree sono abbastanza diffuse, insomma, zone in cui ci sono stati conflitti, guerre, invasioni, migrazioni, quindi violenza, magia, superstizione, si può condensare questo? No, perché in realtà c'è anche una visione molto appunto di critica un po' quasi sociale di questa, almeno gli studiosi, di questa situazione di chi sono poi i reali protagonisti di questa situazione, perché anche quando si parla di principi, principesse, di conflitti, di mariti, di suocere, di amanti che non si possono sposare, di comunque c'è, in realtà si parla della condizione, insomma, dei contadini, delle persone povere, insomma, che erano queste persone che raccontavano queste storie, cioè queste erano ballate diffuse all'interno del mondo rurale, un po' in tutta Europa, non è musica cittadina, urbana, è musica delle campagne, comunque sono storie che si raccontano in quei contesti. E andremo a approfondirli, ma intanto abbiamo parlato di questo mastro muratore che in Romania lo chiamano Manolo o Manole, e qui lo sentiamo proprio dalla registrazione di uno dei più conosciuti dall'archivio, Brailoiu. Costantin Brailoiu è stato un importante etnomusicologo del secolo scorso, contemporaneo di Bartok, forse un filino più giovane, e andiamo a sentire questa versione, che è una versione per violino Ion Puceanu e Dimitru Buscu alla Cobsa, che è una specie di liuto. È una registrazione del 1934. Puncel carpeniș plimbăm se plimbă, dar cine se plimbă? Domnul negru vodă cu nouă zidare, cu nouă timplare, cu manole a zece care și intrece, care și verdeșola, ce ei când pleca, trei zile de vară, trei de primăvară, ce-i când cătat loc am suiș, și păr de petri și păr de coboriș, loc de mănăstire și de case bune pentru pomenire, pentru foame. Verde sola, ce ei că-ntrebă, ce-așa mi-l purcărașii, pusa de chema și nu cumva ai văzut, dunze de multe, și mi-e locul bun, loc fără suișii, și păr de petri și păr de coboriși, Loc de mănăstire pentru case bune sfânta foame. În purcarul greia, purcarul greia, ce băie că am văzut, ce-a scrapă bălaie, joi de dimineață, ea mi s-a sculat și a dărâmat dunze de mult. Și mi-e locul bun, loc fără de suit și fără de coboriș, loc de mănăstire și de case bune pentru poame. E questa quindi era questa ballata della moglie murata, la versione rumena, e sempre dall'archivio Brailoiu. Prendiamo adesso invece una versione della versione greca che si chiama Il Ponte di Arta. Come abbiamo visto, praticamente in ogni paese sono state raccolte diverse versioni di questa storia. E quella del Ponte di Arta è abbastanza conosciuta, anche perché poi Arta è una città cittadina dell'Epiro, dove c'è questo ponte che è un'attrazione turistica perché è molto antico, appunto è rimasto lì secolo, e beh, colpisce poi ogni volta passarci vicino e guardarlo e pensare a questa storia. La storia è questa: allora, un fantasma dice di murare la moglie del capomastro, suggerisce. Allora il capomastro dei muratori cerca di avvertire la moglie attraverso un uccello, il quale però cosa fa? Sbaglia, gli dice il contrario, digli sbrigati. Quando arriva la mettono nelle fondamenta perché dicono c'è un anello, e a quel punto la ricoprono di pietre e di fango e la seppelliscono viva sotto il ponte. Quindi questa è una versione che ha raccolto Brailoiu sempre in queste ricerche che ha fatto appunto in Grecia. Thank you. Αδειό σε την μάνα μου κι άλλο μάνα άμπα και χωριάν κι ένα άλλο μάνα άμπα και χωριάν. E quindi questa era un po' la versione una delle tante, perché poi ricordiamoci che i testi avevano delle cose in comune, ma come dire, il tema era in comune, a volte frazioni di testo come dei motivi tipo formule, come abbiamo visto nel poema epico, anche qui continuano a essere usate in modo anche per memorizzare, perché comunque sì, erano molto più corte, però erano all'origine erano diverse strofe, comunque a ricordarselo, e poi era anche un modo, insomma, come anche nelle nostre canzoni, cioè la strofa, il ritornello, ci sono le cose che si ripetono, insomma, avevano un po' quella funzione queste ballate. E quindi adesso ci sono dei temi, chiaramente alcuni temi più caratteristici di alcune aree, alcune ballate si trovano in alcune zone, altre meno. E a volte poi c'erano dei temi molto simili, magari, che si ritrovavano in ballate però differenti, vero? Sì, è il caso delle ballate bosniache. Un abate padovano a metà del 1700, tale abate Alberto Fortis, è andato a farsi un giro nell'entroterra dalmata, no? Più o meno all'altezza della Bosnia, e ha raccolto quella che in futuro sarebbe stata una delle, anzi la ballata più famosa balcanica, fondamentalmente, che poi è diventata addirittura famosa nel mondo, tradotta da Goethe, da Walter Scott, dalla Akhmatova, da Pushkin, e da, insomma, tradotta in oltre 50 lingue. E questa ballata si chiama Hasaginica, che significa moglie di Hasan Aga. Praticamente la storia parte come la ballata che raccontava prima Vladimiro, inizia in un campo di battaglia e Hasan Aga, ferito in battaglia, fa chiamare la moglie, no? Che è rinchiusa nel castello di Hasan Aga. La moglie vorrebbe vedere il marito, però secondo le regole dell'epoca non poteva uscire da sola dal castello e non poteva neanche dimostrare i suoi sentimenti al marito, quindi era bloccata tra la volontà di vedere il marito e l'impossibilità di farlo. Allora cosa succede? Hasan Aga si arrabbia moltissimo, no? Perché dice: cavolo, mi hanno sferito in battaglia, mia moglie non viene. E le manda un messaggio e le dice, tramite il messaggio, di raggiungerlo comunque senza portare i figli, i 5 figli, tra cui uno anche in culla, insomma. Sì, certo. No, perché poi bisogna sapere che a volte questi figli avevano dei poteri magici, quindi per esempio lo vedremo, cioè, quando parliamo in Italia, no? C'erano i bimbi di pochi mesi che avvisavano, non so, il padre di non bere il vino perché era velenoso, certo. Cose di questo tipo. Sì, sì, oppure anche i bimbi forzuti, no? Lo Starke Hans della tradizione tedesca, eccetera, eccetera. E insomma, succede che il fratello della moglie di Hasan, pensando probabilmente che il marito morirà in battaglia, lo vuole fare sposare con un cadi ricco di un altro paese. Ovviamente la moglie non vuole, però no, insomma, abbiamo capito che queste povere donne erano trattate malissimo periodo. La cosa che a me ha colpito quando poi, insomma, perché poi io ci ho fatto insomma, vedendo queste cose, confrontando, è che comunque in qualche modo c'è un po' di, appunto, di coscienza di questo fatto che le donne hanno così trattato male, e colpisce perché comunque, essendo così antiche, comunque c'è appunto questa coscienza che non sono trattate male, che in casa vivono situazioni drammatiche, che vengono usate un po' come degli oggetti, come dei possessi, cose che poi in realtà adesso sono di stringente attualità, e forse c'è un pochino di coscienza, però secoli fa che qualcuno abbia scritto, non neanche scritto, che siano state costruite queste canzoni che sono arrivate per tradizione orale praticamente fino a noi, sì, basate su questi temi, è una cosa notevole. Tra l'altro i temi trattati non si sa ancora tutt'oggi se sono di origine mitica o sono successi veramente, e soprattutto la geografia della nascita. Per finire la storia, per non perdere il filo, insomma, il fratello la fa sposare con un altro, però lei chiede come ultimo desiderio di sfilare davanti al castello del marito, dell'ex marito, diciamo, e con un velo davanti, così che i figli non possano vederla. Però i figli, passando davanti, intanto il marito era anche tornato dalla battaglia, però i figli la riconoscono e lei muore praticamente, non riesce neanche a salutarli, muore dalla tristezza, dalla vergogna, perché non voleva fare quello. E insomma, questa ballata è famosissima ovunque, veramente. E noi sentiremo una versione di un artista con la Shergia, Halid Music, e ovviamente questa è una canzone, dura 4 minuti e 18, ci sono anche le versioni più lunghe, però e più il tempo passa, sembra, e più tutte le storie diventano sempre più corte, no? Certo. Però anche questa comunque fa parte della tradizione, e quindi andiamo a sentire Dvore Mela Haseginica. Sarena, vrace nazad Hasanaginice, na umoru aga Hasanaga, povrati se Hasanaginica. Kad je bila preko polja ravna, večeri ni spoljeno saše, a dva sina u mezar spustiše, a sa nagu mrtva ga suliše. Dvije kćeri kod dvije gorske vile, a dva sina dva sokola siva, a sa nago sunce iza gore, kad će mene sunce ogrijati, što govori a s dušom se bori, to iz usti laku dušu pusti. Ed eccoci qua, insomma abbiamo ascoltato questo brano, insomma dalla, sempre relativo alle ballate, e adesso giustamente chiedevo a Stefano, c'è un altro brano di Muio Novalis. Sì, Muio Novalis, che è un guslar, questo un guslar bosniaco, che ci racconta Omer i Merima, è un'altra fondamentalmente per, come regola generale, le ballate hanno sempre una fine tragica, invece le romanze parlano d'amore. Anche questa è una fine tragica, è più o meno Romeo e Giulietta, diciamo, un amore che è impossibile tra Homer, che è un po' più ricco di Merima, ovviamente la mamma di Homer vuole fargli sposare una ricca uguale, certo. Però lui è innamorato di lei e finisce male, finisce che si incontrano, sì, ma in cielo, diciamo, ecco. Sì, questa c'è una ballata proprio anche in vari paesi, tra cui quelli balcanici, insomma in Ungheria, dove appunto c'è la solita storia in cui i due amanti alla fine muoiono perché appunto c'è questa opposizione, il madre di lui, e lui si uccide, ecco, vedi. E lancia una maledizione su questa matrigna, e alla fine poi le due tombe, ci sono dei fiori che nascono sulle due tombe, e i due fiori dentro la cappella si incrociano a formare, esatto, come dire, infatti l'aspetto fiori. Naturalistico è sia... una ballata che è molto, era molto diffusa anche nel mondo anglosassone, è arrivata anche negli Stati Uniti, credo che si chiama Barbara Allen o una cosa di questo tipo, ma ci torniamo sopra, adesso non vorrei dire una cosa per un'altra. No, chiaramente c'è tanto da studiare, però l'aspetto, dicevo, naturalistico, i fiori gli alberi anche sono sempre presenti, soprattutto anche nella Sevdalinka, che abbiamo già trattato nelle precedenti puntate. Allora adesso ascoltiamo il guslar Muio Novalis, che ci racconta Homer i Merima. Ovviamente purtroppo non possiamo ascoltarla tutta perché dura 16 minuti e 40, che è più o meno la durata di una ballata normale, ecco. Buon ascolto. Un bel pezzo. Sì, sì. neće majka prositi ime Rimu, ej neće majka prositi ime Rimu, ej već mu prosija tlagića zlato. Isprosi mu i prstenova je, malo joj roka ostavila, aj malo roka za nedelju dana. Ej dok je ona sate sakupila, sakupila hoće, e restiamo sempre in area dell'ex Jugoslavia, andiamo più verso comunque le minoranze ungheresi del Banat, nord della Jugoslavia, e per trattare un tema che è abbastanza popolare soprattutto nella regione appunto della grande pianura ungherese, che è il tema delle ballate di fuorilegge, ballate che hanno un grande popolarità nel soprattutto nel XIX secolo. Dopo che cosa succede? Che voi sapete che nel 1848 ci sono i moti rivoluzionari in tutta Europa, no? E la stessa cosa appunto in Ungheria, dove appunto c'è un momento, vengono l'Ungheria proclama la propria insomma ci sono i moti di indipendenza, i suoi leader che sono Lajos Kossuth e altri patrioti che praticamente cercano insomma di come da altre parti, come Milano, altre città, insomma di essere indipendenti, però come in questo caso interviene l'esercito, insomma gli austriaci riportano come dire l'ordine, Kossuth è costretto ad andare in esilio, il poeta che adesso mi sfugge il nome, Sándor Petőfi, ecco, anche lui mi pare che in esilio, altri vengono fucilati e insomma finisce male, e per cui molti di quei capitani, di quei diciamo potremmo dire definire rivoluzionari, insomma che soprattutto militari che si erano ribellati e che non volevano assolutamente ritornare nei ranghi dell'esercito austro-ungarico, prima dopo il 1848 e poi dopo l'accordo in cui viene stabilito, insomma, la grossa nobiltà ungherese accetta di avere la doppia corona, e questi invece no, o nobili o comunque diciamo militari che non vogliono stare sotto sotto l'Austria si danno alla macchia e quindi fanno una specie di non si può dire guerriglia, perché sostanzialmente agiscono come specie di fuorilegge. Briganti. Come briganti, esatto. E diventano dei personaggi mitici nella tradizione popolare. Come Tiburzi in Maremma. Diventano, sì, come il Pastor Cortese, questi personaggi, insomma, diventano come appunto degli specie di Robin Hood, insomma. E quindi praticamente questo tipo di ballate diventano molto popolari. E sentiamo proprio un frammento tratto dalla regione del Banat, registrato da questa grande ricercatrice Aniko Bodor. Questa si chiama Zavarosha Tissa, che vuol dire tempestosa la Tissa, che appunto è uno dei fiumi insieme al Danubio che bagna quelle aree. Zavarosha Tissa Nemakarlei Et a híres bogárémre át akar menni, lovat akar lopni, kecskeméti nagy vásárba pénzt akar csinálni, meg akar nősülni, pénzt akar csinálni. li morcio io bobaio e lo corio ve. Niski morcio niski oblokot fir hongian it kesherik bogarim rejtarany simpori. Arany az ablája, ezüst a kantárja, ez a híres bogár Imre, annak a gazdá. E un'altra ballata che era più antica ma che acquisisce una grande popolarità è la ballata che viene chiamata La sorella dell'uomo condannato a morte. Questo uomo comandato a morte si chiama Laszlo Fehér ed è una specie di brigante, anche lui fuori legge, e non a caso questa ballata è arrivata tra le versioni che sono state registrate tra quelle più diffuse, era più diffuse tra l'inizio del Novecento e per tutto il Novecento, perché nell'Ottocento, come dire, aveva acquisito una nuova popolarità sull'onda appunto del fallimento, della sconfitta dei moti rivoluzionari il 48 e di tutte queste diffusioni di ballate di fuorilegge. È una storia che curiosamente, appunto, ritroviamo addirittura nella letteratura, addirittura del XVI secolo, addirittura un duca Gonzaga che avrebbe imposto un matinone ripetitore a questo capitano che aveva sedotto una donna e con la scusa di che avrebbe salvato il marito dalla decapitazione, invece poi l'aveva ucciso. In Italia è molto famosa e molto diffusa come Cecilia questa ballata, perché la protagonista si chiama Cecilia e di solito è il marito invece lì che è in prigione e lei si sacrifica concedendosi al capitano delle guardie. Qua il capitano delle guardie, passata la notte, lo fa uccidere. Lei di solito se ne va in convento. Invece in Ungheria di solito c'è una maledizione che si dice che possa il tuo pane trasformarsi in pietra. E adesso andiamo a ascoltare una versione di questa ballata registrata proprio da Zoltán Kodály poco più di 100 anni fa, nel 1912. E Qui abbiamo sentito anche il caro e vecchio rullo di Cesare, c'era del cilindro, del fonografo cilindro, che appunto permetteva di registrare pochi minuti e un po' danneggiati, però ci sono arrivati, quindi testimonianza della continuità della presenza di questa ballata quasi fino ai nostri giorni. Ci sono piccoli cortometraggi da ascoltare, che li trovano, trovano alcune persone che li sanno. Poi queste ballate comunque chiaramente con i mezzi che abbiamo a disposizione arrivano anche un po', ci sono molte registrazioni e insomma sono dei piccoli capolavori a loro modo. E siamo quasi arrivati alla fine, potremmo parlare ancora per un bel po', potremmo parlare insomma anche dei legami, ma magari ci ritorneremo quando parleremo dell'Italia, dei legami tra alcune di queste ballate. Questo abbiamo visto con la Cecilia, abbiamo visto la storia dei due fiori di cappella precedentemente. E chiudiamo invece con una cosa un po' particolare che abbiamo trovato, quindi due versioni che vengono dalla Slovacchia, ed esattamente un disco della etichetta Argo inglese, di registrazioni di John McNish del 1960. Sono ballate che vengono dalla zona carpatica, dalla valle di Velisca, gruppi di donne che cantano appunto queste due ballate. Una sono due frammenti abbastanza corti, una è una ballata di avvelenamento. Ci sono molte ballate, c'è per esempio quella che in inglese è conosciuta come un buco, comunque in italiano viene chiamato il testamento dell'avvelenamento. È questo che torna a casa e la madre gli fa una domanda, gli chiede: cosa hai mangiato stasera, mio figlio Enrico? Ho mangiato, sto male. Sì, e ci sono in varie versioni, ecco. E poi l'altra invece è una ballata di omicidi, perché volete sapere che chiaramente nell'Ottocento, anche su influenza dei cantastorie, andava molto il tema delle ballate un po' tipo giallo, thriller, no? E quindi si raccontavano queste storie di ballata che erano tipo dei delitti. Mackie Messer di Kurt Weill. Sì, una roba di questo tipo. E quindi andiamo a sentire queste due ballate dalla Slovacchia, che sono una di avvelenamento e l'altra di omicidio. E però vi nel frattempo vi auguriamo anche buonanotte. Vi salutiamo, ciao, alla prossima, sperando che facciate sogni tranquilli. Esatto. Ženy,